Buonasera ragazzi, trasmettiamo dalle frequenze. Scusate, trasmettiamo dalle frequenze 106.52. Al solito in via Sebastiano Serlio, frequenza free. BB Radio, anche questa sera non potremo parlare più di tanto. Scusatemi ancora, in realtà andiamo in è un format in edizione straordinaria per parlare di un avvenimento increscioso che mi è capitato il 22 gennaio. Mi raccomando, non mancate, che c'è il compleanno di Baby Radio, un compleanno che servirà a finanziarla. Questa è l'unica radio libera dopo Radio Alice. L'avvenimento che mi è capitato ha dell'incredibile. Dell'incredibile. Mi hanno provato. Infatti dovete diffidare dalle imitazioni e dalla roba, perché mi ha mandato una bianca bastarda. Credono di poterci privare del nostro diritto di protesta, ma abbiamo la frequenza free, libera per tutti, quindi voglio informarvi dei fasci che mi hanno propinato della bianca che mi ha fatto stare di merda. E pensate che sono dovuto andare a denunciarli, io che denuncio, cioè un controsenso, la radio libera vi va a denunciare. Però diffidate da Casa Pound, diffidate dai fasci che spacciano, ragazzi, boicottiamoli. Sono andato dalla Celer, dalla Polfer, quella delle ferrovie, capito? Quindi mi raccomando ragazzi, è solo un annuncio libero, free per tutti, mi raccomando, diffidate adesso i fasci che mi danno la merda. Detto questo, vi ricordo l'appuntamento ore 22 il 22 gennaio per restare incolonnati con gli astri. Ci troviamo sotto il ponte di Via Libia, ragazzi, compagni di merende. Siamo tutti lieti di annunciare la vera festa su Via Libia. Ci sarà Ode, ci sarà Antonio, Piero, ci sarà sicuramente da ribertirsi, e la roba, quella purtroppo non sarà free, suonerà. Finalmente potrete conoscere Venice. Ci sarà Venice, ci sarà della roba che mandiamo sempre in onda, della Spettro. Saranno tanti artisti dai mille colori. Baby Radio. Boys, the boys be Thank you. Ciao Patrizio, t'ascolto sempre qua da Regina Cell. Ti chiamavo perché tu ci dai il supporto buono, quello di cui ti ascoltiamo tutti. Io e tutti i compagni qua ti ascoltiamo, facciamo tremare i muri di sto cazzo e catapecchi in cui ci troviamo, è una condizione disagiata. Qua ti ascoltiamo Patrizio, mi hanno messo dentro per puttanate vendevamo di formaggi, ricettazione, roba di formaggi, che cazzo ne sape, mi devo scontare 5 anni senza buona condotta. Patrizio, veramente un bacio grande, grazie, ti ascoltiamo sempre, dai voce ai compagni, pezzi di merda. Ciao Patrizio, tutti ascoltiamo Baby Radio qua da Regina Celi, un bacio. Misura la forza su Baby Radio, ascolta 106.5.5. Per i combattimenti, per gioco, sono in ma nella lotta un grosso, un misurare la forza di suoi avversari. Misura la forza su Baby Radio, ascolta 106.552, frequenza free, sentiti libero di scegliere. Baby Radio, la soluzione al quotidiano. Misura la forza su Baby Radio, ascolta 106.5.5. Tu puoi competere, questi combattimenti per gioco sono in ma nella lotta un grosso può misurare la forza dei suoi avversari. Misura la forza su Baby Radio. E adesso, ragazzi, parliamo per la prima volta o la seconda, se non mi ricordo se l'avevo accennato. Di cinema. Baby Radio è l'unica radio che, grazie alle vostre richieste, perché in tanti mi hanno chiesto: Patrizio, dacci dei consigli su dei film della nostra generazione. Io non voglio illudere nessuno, però vi farò questa playlist di film che mi hanno cambiato in maniera drastica proprio l'esistenza. Quindi oggi si parla di cinema, domani magari si parla di letteratura, la prossima settimana di dischi, la settimana dopo ancora parliamo di cantieri, fincanti e così. Al primo posto, al decimo posto, andiamo a ritroso, quindi dalla meno bella alla più bella. Come film c'è Cucchiaio d'argento, film di una produzione underground, una produzione sotterranea. Al nono posto c'è Grattami, come il vento questa vita mi ha stancato. l'ottavo posto c'è il sentiero delle fiale. Io ragazzi, non so se avete, li avete visti questi film, è roba un po' splatter, un po' strana. Al settimo posto, sempre per il cinema, questa è una chicca perché è girato tipo film muto in bianco e nero. Questo è proprio per intenditore, riprende un po' Cocteau, tutta quell'avanguardia artistica. Si chiama Il Lazzo. Al sesto posto, vabbè, come non citare Fili di Ferro. Al quinto posto direi Mary per Sempre, che è un cult, ma quello è già oltre il confine, come Ragazzi fuori, fuori vela di Axe. Al quarto posto Inverno Bianco. Terzo posto, questo ci stiamo avvicinando al podio, questo è proprio bello, è la storia di due ragazzi che si innamorano, tipo Paradiso Inferno, ed è proprio un film infernale, si chiama Il Cuoco di Savona e parla proprio di spara metanfetamine, proprio crystal meth, tipo quel cazzo di telefilm che fanno adesso per i ragazzini. Al secondo posto I Ragazzini dei Boschi si chiama. E al primo posto, ragazzi, questo è il capolavoro cult, è un po' come Il Re di Roma, no? Non so se l'avete visto, ma questo è ancora meglio. Si chiama Io e il mio barile. Bibi Radio. Thank you. 22 gennaio, il compleanno di Baby Radio. Via. Il 22 gennaio, il compleanno di Baby Radio. Via Sebastiano Ferlio vi aspetta insieme al vostro Patrizio, Apode e Antonio Luppolo. 22 gennaio, Baby Radio compie gli anni. 22 gennaio, con compleanno sotto il ponte di Via Baby Radio. Il 22 gennaio, il compleanno di Baby Radio. Via. Ciao Patrizio, sono Steve di Livorno. Ci hanno tenuto fuori dall'Armando Picchi sti pezzi di merda. Ma come si fa? Qua sento il tifo. Ci hanno dato la DAP, i bastardi. Ci sono tutti i celerini, teste di cuoio del cazzo qua. Patrizio, meno male che ci sei tu. Ci ascoltiamo la partita, ci ascoltiamo Baby Radio. Fai qualcosa, devi fare qualcosa qua per noi. Siamo fuori. Adesso anche sta cazzo di testa del tifoso vogliono per farci entrare. Che cazzo ce l'ha 20 euro? Mi ci compro le spade io con 20 euro, hai capito? Ciao Patri, un bacio. Il 22 gennaio, il compleanno di Baby Radio. Via Sebastiano Serlio vi aspetta insieme al vostro Patrizio, Apode e Antonio Luppolo. 22 gennaio, Baby Radio compie gli anni. 22 gennaio, con compleanno sotto il ponte di Via Baby Radio. Il 22 gennaio, il compleanno di Baby Radio. Via. Anche questa sera vi illustriamo, vi voglio, scusate, illustrare brevemente in cosa consisterà la serata del 22 gennaio. C'è stata molta pubblicità, ci siamo specializzati appunto in maniera molto metodica su questo tipo di avvenimento, perché ci interessa dar voce a tutti gli amici che vorranno venire. Ci sarò io naturalmente, ci sarà Antonio Luppolo, ci sarà l'immancabile Ode, il nostro inviato dalla strada, e si costruirà attivamente un nuovo pianeta. Ken Dale è il pianeta giocoso, è un pianeta sostenibile, perché grazie alle energie del sole e dell'acqua che noi andiamo avanti. Kendall è l'incarnazione di tutto quello che ci circonda, delle mattonelle che si staccano dalle foglie che libere vivagano. È il dio pietra, Kendall è tutto quello che ci circonda, il nostro pianeta. Non mancate, è un nuovo pianeta, anzi. Mi raccomando, portate da bere se volete, siete liberi anche di portare della roba, se ne avete. Però non portate, magari, non lo so, da mangiare, perché poi vi viene da stracciare se mangiate, non lo so. Sicuramente si berrà, quello ve lo prometto. Ci si farà, e bene. E sicuramente si divertirà, metteremo musica, ci saranno episodi danzanti, ci sarà il pezzo Venice, insomma non rimarrete delusi, staremo in ottima compagnia per tutta la sera. Ragazzi, mi raccomando, Radio. Che mi telefona e piange, la mia vita che si frange contro muri troppo spessi, nella laringe mi infilo una falange, la disperazione che pervade, ho una voglia di evadere che mi porta via le dissi scrissi, l'essere senza legge né nessuno, nessun recapito, nessun destinatario alcuno, delle volte mi sentivo sano tremalato, alcune volte ho persino amato, quel più delle volte sono stato emarginato, sin da piccolo il mio volto era emarginato, a 18 anni, troppo gracile per fare il soldato. Provo solo dello schifo per la vita, sogno domenica, caffè, borghetti e botte alla partita. Finita un'altra doccia e comincio a stare male, prendo il Zerpak, lo spillo, lo uso per dormire. Non puoi capire la mia situazione mentale, se provi a entrarmi dentro ti fai male. Ti bruci, stregone del monte, fuggi. Non credo a quel che dici, non credo più a niente né a nessuno. Quel che feci non lo rinnego, stai sicuro che le mie feci invaderanno il tuo mondo rendendolo scuro. Scuro. Sono il figlio di un'infinità. vista. Quanto dista Capodistria, magari al casino conosco una bimba di destra che vuole amarmi, non vuole solo fottere, vuole sposarmi, portarmi all'altare. Comincia il baccanale di là e delle fandezze, persone che si rotolano succhiandosi gli uni con gli altri. Un banchetto mixale dove cercano di scambiarsi gli altri. Per ora il muro come un coglione da solo, lunatico il mio carattere, la ragazza che non parla più e soffre in silenzio. Vorrei fare qualcosa ma non posso, penso ad altro, ho comprato una tele che non userò mai, gli amici che mi dicono se vuoi ce la fai, che mi accontento del minimo, l'indispensabile, che se avessi pazienza più voglia sarai inarrivabile. Ma non sono nessuno, sono il numero zero, anzi di meno. Posso per ora imbambolarmi a guardare il tuo seno, oltre a questo però niente, non ho più voglie. Al calar del sole vedi marciscono le foglie, la mia testa come in due tenaglie, la tua pancia gonfia come quando si ha le doglie. E giù di raglie di bamba per dimenticarsi ancora, tu che sorridi mi ascolti, forse è arrivata la mia ora. Prendere coscienza della propria situazione, e dallo stadio alla casa lo senti il tifo, preparati a subire il tesoro dello schifo. Thank you. interrompiamo le trasmissioni per comunicarvi una notizia straordinaria. Le forze armate tedesche si sono arrese agli angloamericani. La guerra è finita. Ripeto, la guerra è finita. Ciao, sono Blade e io le bere me ne faccio solo di Nutella. Frequenza free. Ciao, sono Blade e io le bere me ne faccio solo di Nutella. Frequenza free. Patrice, sono Mel. Ti ricordi? E abitavamo lì in centro. Mi devi soldi per pallina ancora, quella... Oh coglione, ciccia mami, vieni, sono a me, da vieni. Vieni, mi devi una pallina. 50 euro, amico, solo quei, ci conosciamo 5 mesi. Tanto in ospedale, rotto femore, mia figlia da far mangiare, figlia puttana. Io vengo in studio, dove sei adesso? Cambiato sede, Sebastiano Serio, io stronzo. Con gli giusci vengo, figlia puttana, ma sei coglione. Vengo, Patrice, ti islamo. Me le faccio solo di Nutella, frequenza free. Ciao, sono Vlad e io le bere, me le faccio solo di Nutella, frequenza free. Ragazzi, mi raccomando, portatevi una copertina, un Colmar, perché non so quello che... va bene anche quello che trovate dai bidoni. Andate per caso nelle parrocchie che solitamente lasciano al centro della raccolta dei vestiti, tipo super spazio della parrocchia, e prendete qualche vestito perché è freddo lì, parte che è umido, ragazzi, quindi sotto il ponte di via lì via c'è riscaldamento. Portate dell'olio, dei barili d'olio, che poi gli diamo fuoco, ci divertiamo come dei, facciamo le danze in onore di Kendall e iniziamo a girare intorno al fuoco, tipo un'associazione della Jurvedica. Ragazzi, sarà veramente bellissimo, e se ce la fate portate, che ci facciamo tutti e sicuro ci divertiamo. E poi volevo dire l'ultima cosa, non lo so se vi sentite Charlie, sapete tutti cosa è successo, purtroppo a me non me ne frega un cazzo, hanno avuto un'azione di rivolta e hanno fatto bene, quindi meno Charlie. Forse andiamo un po' controcorrente, ma non me ne frega proprio un cazzo, anche qua dalla redazione mandate tutti a spingerci come solo noi possiamo fare, vera radio free, vera radio libera. Ahmed ricercato a Parigi, io mi ricordo nelle balie mi facevo insieme a Piero di Milano, per me Ahmed è un buon gustaio ed è invitato e ci porterà sicuramente da divertire. Quindi noi abbiamo rispetto per tutte le religioni, non ce ne frega il colore, la razza, il buco del culo, non ci interessa niente. Ahmed, te lo dice Patrizio, alle ore 24 di venerdì sei invitato sotto il ponte di Via Libia. Kendale, anche tu venire a ballare con noi, a farti con noi, a vendere, a mangiare. Porta dell'olio però, perché è freddo e umido. Non c'è riscaldamento, ma ci si diverte su Baby Radio al compleanno. Mi raccomando, il 22 gennaio, frequenza free, Kendale. Il 22 gennaio, l'agosto, il 22 gennaio, l'agosto, il 22 gennaio, l'agosto, il 22 gennaio, l'agosto, il 22 gennaio, l'agosto, costa freddo un nuovo pianeta, che date? Non mancate al compleanno di Frequenza Free. Baby Radio presenta Kendale. Il 22 gennaio, l'agosto costa di un nuovo pianeta. Che date? Non mancate al compleanno di Frequenza Free. Baby Radio presenta Kendale. il 22 gennaio, l'agosto, l'agosto, l'agosto, il 22 gennaio, l'agosto, l'agosto, l'agosto, il 22 gennaio, l'agosto, l'agosto, l'agosto, il 22 gennaio, l'agosto, l'agosto, l'agosto, il 22 gennaio, l'agosto, costo freddo di un nuovo pianeta, che date? Non mancate al compleanno di Frequenza Free. BB Radio presenta che Natale. What are you waiting for? Christmas?